e tu lo sai che mi prende bene, dipende da come lei mi prende il bene. Qua non ci sono finte liriche sul beat, conta tutte le battute con un click click click click. Si rimane sul classico come un vecchio cantico, il nostro metodo rimasto metrico, rimasto epico come il destino. Afferro rime come un mastino, ho più visioni in testa di Quentin Tarantino. Viaggio nel tempo sul tempo McFly, attraverso i portali come fai e non mi fermo mai. Su quattro quarti dal 92 fronte retro crew, esco dalle caverne come Ryu, punto sempre più in alto, ancora più in su. Inseguo i miei sogni su un dipinto fatto solo di blu. Ho cominciato sulla strada come tanti, zero contratti, zero contanti, coi piedi sempre a terra, ancora vivo e ancora insieme il mio destino. Come un esempio di un particolare stile che non ha mai finito di dire quello che ha da dire. Un esempio di qualità sospesa nel tempo, ciò che rende classici almeno. Prime rime le fai con i verbi nati, perché sono le più semplici e facili da fare. Il tempo è relativo, nel senso che se non lo perdi e non te temi, è già un aspetto positivo. Argomenti discutibili che sono improponibili, ti scatto in faccia come paginobili. I primi free sopra il deck sul beat, mentre scratchi sample toccandoti un blip blip. E con l'inglese arriva il rap americano, ma più che lo stile copri il modo di vestire. Colpo su colpo cresce il nuovo marciano, e YouTube è il ring sopra il quale investire. Contro i simili, perché questo che siete, tutti uguali con lo stesso poster alla parete, poco originali, e finalmente potrete essere i più classici dei rappers. Un esempio di un particolare stile che non ha mai finito di dire quello che ha da dire. Un esempio di qualità sospesa nel tempo, ciò che rende classici almeno. Esempio di qualità sospesa nel tempo, ciò che rende classici almeno più.